educare il cuore. L'educazione è un diritto e un dovere dei genitori, che in un certo senso prolunga la generazione. Si può dire che il figlio, in quanto persona, è il fine primario al quale tende l'amore degli sposi in Dio. L'educazione appare così, quasi la continuazione dell'amore che ha portato alla vita il figlio, con la quale i genitori cercano di dargli gli strumenti perché possa essere felice, capace di prendere possesso del suo posto nel mondo, con garbo umano e soprannaturale. I genitori cristiani sono convinti che ogni figlio sia una dimostrazione della fiducia di Dio e che educarli bene sia, come diceva San José María, il miglior affare, un affare che comincia con il concepimento e si esprime all'inizio con l'educazione dei sentimenti, dell'affettività. Se i genitori si amano e considerano il figlio come il frutto della loro donazione, lo educheranno nell'amore e per amare. In altre parole, il primo compito dei genitori è quello di educare l'affettività dei figli, disciplinare i loro affetti, ottenere che siano bambini sereni. I sentimenti si formano soprattutto durante l'infanzia. In seguito, nell'adolescenza, possono comparire le crisi affettive e i genitori devono aiutare i figli a risolverle. Se da bambini sono stati tranquilli e sereni, supereranno più facilmente questi momenti difficili. Inoltre, l'equilibrio emotivo favorisce la crescita degli abiti dell'intelligenza e della volontà. Se manca l'armonia affettiva, lo sviluppo delle virtù è più difficoltoso. Una condizione irrinunciabile per stabilire una buona base sentimentale e affettiva è che gli stessi genitori cerchino di perfezionare la propria stabilità emotiva. In che modo? Migliorando la convivenza familiare, curando la loro unione, dando dimostrazione davanti ai figli con la dovuta prudenza del loro reciproco amore. Tuttavia, certe volte si è portati a credere che gli affetti o i sentimenti evadano dall'ambito educativo familiare. Forse perché può sembrare che siano qualcosa che succede, che sfugge al nostro controllo e non possiamo cambiare. Si arriva addirittura a considerarli con una prospettiva negativa, dato che il peccato ha creato disordine nelle passioni. Queste rendono difficile un comportamento razionale. All'origine della personalità. Questo atteggiamento passivo o persino negativo, presente in molte religioni e tradizioni morali, contrasta fortemente con le parole che Dio rivolse al profeta Ezechiele. Darò loro un cuore di carne perché seguono i miei decreti e osservino le mie leggi e li mettono in pratica. Avere un cuore di carne, cioè un cuore capace di amare, appare come una realtà creata per compiere la volontà divina. Le passioni disordinate non sarebbero tanto un frutto dell'eccesso di cuore, quanto la conseguenza di possedere un cuore cattivo che deve essere guarito. Lo ha confermato il Signore. L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Vengono dal cuore le cose che contaminano l'uomo, ma anche tutte le cose buone. L'uomo ha bisogno degli affetti, perché sono un potente motore per l'azione. Ognuno tende verso ciò che gli piace e l'educazione consiste nell'aiutare a fare in modo che coincida con il bene della persona. Bisogna comportarsi in modo nobile e con passione. Che cosa c'è di più naturale dell'amore di una madre per suo figlio? L'affetto spinge a compiere tanti sacrifici con gioia. Invece, quando qualcosa per qualsiasi motivo ci appare spiacevole, quanto è più facile rifuggirne. In certi momenti rendersi conto della bruttezza di una cattiva azione può essere un motivo più forte di mille ragionamenti per non commetterla. Evidentemente tutto ciò non deve essere confuso con una concezione sentimentalista della moralità. La vita etica e il rapporto con Dio non debbono essere affidati ai sentimenti, come sempre. Il modello è Cristo. In Lui, perfetto uomo, vediamo che gli affetti e le passioni cooperano al retto agire. Gesù si commuove davanti alla realtà della morte e opera miracoli. Nel Getsemani notiamo la forza di una orazione che dà sfogo a sentimenti vivissimi. È preso anche dalla passione dell'ira, positiva in questo caso, quando ripristina la dignità del Tempio. Quando si desidera sul serio qualcosa, è normale che l'uomo si appassioni. Invece, non fa piacere notare che qualcuno fa le cose tanto per farle, di malavoglia, senza mettervi il cuore. Ciò non significa che ci si debba far travolgere dagli affetti. Anche se prima di tutto bisogna impegnare l'intelligenza in quello che si fa, il sentimento rende amabile la ragione. Fa in modo che le cose buone siano gradevoli. La ragione, da parte sua, conferisce luce, armonia e unità ai sentimenti. Favorire la purificazione del cuore. Nell'uomo, le passioni hanno il fine di favorire l'azione volontaria, non di attenuarla o di ostacolarla. La perfezione morale consiste nel fatto che l'uomo non sia indotto al bene soltanto dalla volontà, ma anche dal suo appetito sensibile, secondo queste parole del Salmo. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Perciò non è conveniente volere sopprimere o controllare le passioni, come se fossero cose cattive o da rifiutare. È vero che il peccato originale le ha sovvertite, ma non le ha snaturate e non le ha corrotte in modo assoluto e irreparabile. Occorre orientare positivamente l'emotività, dirigendola verso i beni autentici, l'amore di Dio e degli altri. Ecco perché gli educatori, i genitori per primi, debbono fare in modo che l'educando, per quanto possibile, goda nel fare il bene. Formare l'affettività richiede prima di tutto rendere più facile ai figli di conoscersi e di sentire in un modo proporzionato alla realtà che ha risvegliato la loro sensibilità. Si tratta di aiutare a superare, a trascendere un affetto per valutare con obiettività la causa che lo ha provocato. Questa riflessione può influire positivamente aiutando a intervenire sulla causa. In altri casi, la morte di un essere amato, una grave malattia, non sarà possibile cambiare la realtà e sarà il momento di insegnare ad accettare l'accaduto come proveniente dalla mano di Dio, che ci ama, come un padre ama i suoi figli. In altre occasioni, dinanzi a una arrabbiatura, a una reazione di paura o a un'antipatia, il padre o la madre dovrebbero parlare con i figli, aiutandoli a capire, nella misura del possibile, il perché di tale sensazione, in modo che possano superarla. Così conosceranno meglio se stessi e saranno più capaci di dare il giusto posto al mondo degli affetti. Inoltre, gli educatori possono preparare il bambino o il giovane a riconoscere in se stessi e negli altri un determinato sentimento. Per esempio, si possono utilizzare la letteratura o il cinema per insegnare a dare risposte proporzionate che contribuiscano a modellare il mondo emotivo dell'uomo. Un racconto coinvolge chi lo vede, lo legge o lo ascolta, orienta i suoi sentimenti e lo abita a un certo modo di vedere la realtà. A seconda dell'età, l'influsso può essere maggiore quanto più piccolo è il bambino. Una storia avventurosa o di suspense, un racconto romantico, possono contribuire a rafforzare i sentimenti che certe situazioni oggettivamente meritano. Indignazione di fronte all'ingiustizia, compassione per l'infelicità, ammirazione per il sacrificio, amore della bellezza. Contribuirà inoltre a stimolare il desiderio di possedere questi sentimenti, perché sono belli, sorgenti di perfezione e di nobiltà.